Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, mi mancherà. Mi mancherà davvero tanto. Ho sentito che lascia la direzione di Radio 24. Non so se si ricorda di me. Sono quel rompiscatole che ogni tanto, da Tempio Pausania, in provincia di Sassari, le invia due righe via email per segnalarle i problemi di ricezione che talvolta non consentono l'ascolto delle vostre trasmissioni. In un paese di maleducati e in tempi dove tutto corre alla velocità della luce, nei quali si è perso il gusto e il piacere di ascoltare le persone e di riflettere prima di parlare, dove pare che tutto sia merce di scambio e che non si faccia mai niente per niente, un direttore di radio che trova il tempo di ringraziare per la segnalazione, uno sconosciuto e lontano ascoltatore, e che si preoccupa di indicare la posta mail del responsabile tecnico dell'emittente, nel vostro caso il gentilissimo Dario Arbulla. Beh, mi lasci dire, mi disorienta un po'. Non ero preparato, perché abituato, mio malgrado, ai grandi silenzi. Non perché vivo in qualche landa desolata di deserto e cactus, o sulla banchisa polare, ma perché non ti si filano proprio. Infatti, mi è capitato spesso di inviare mail, per le ragioni più diverse, a scrittori, politici, registi, giornalisti, cantanti, attori, doppiatori. Silenzio di tomba. Ti rispondono solo se si tratta di una scuola dove si devono sborsare quattrini. In una terra di padrini, dove non si è considerati per quello che si è, ma per quello che si rappresenta, lei mi è sempre apparso come un angelo vendicatore dei dimenticati. Un'isola felice, una zona franca dove tutti possono esprimere la propria opinione. Una piccola parte di America, quella libera delle opportunità e dell'American Dream. Non credo che certi atteggiamenti possano essere ascritti a stili improvvisati e insinceri. L'opportunismo, anche quello professionale, è facilmente individuabile. La sua è pura gentilezza ed educazione, le quali non sono merci che possono essere confuse e spacciate per altro. Non è una professione che trasmette certe virtù, ma al contrario, certe peculiarità caratteriali e stilistiche arricchiscono una professione facendola amare molto di più, specie quando, come nel suo caso, si è in possesso di un senso degli altri e di una sensibilità davvero notevoli. Lei, oltre ad essere un grande giornalista, è un grande professionista e soprattutto una grande persona. Per questo mi mancherà. Con stima infinita, Luigi. Egregio direttore, sappiamo che Radio 24 ha più di 2 milioni di ascoltatori quotidiani e quindi questa email sarà probabilmente la 1.999.999esima dello stesso tenore che avrà ricevuto da quando è stata resa nota la notizia della fine del suo contratto come direttore di questa radio, unica nel panorama italiano. Desideriamo unirci alle persone che le hanno già espresso stima e apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni, per l'impostazione data e per la passione che ha saputo infondere nei suoi collaboratori nel rendere un servizio agli ascoltatori italiani che secondo noi dovrebbero ammontare a 20 milioni, non a 2. Per libera scelta siamo una coppia che da un paio d'anni vive senza televisione e le assicuriamo che non ci manca vista la qualità della programmazione italiana e i programmi della sua radio scandiscono la nostra vita quotidiana. I radiogiornali frequenti e obiettivi, i commenti aggiornati e ricchi di informazione e di qualità, il grande spazio che offrite alla voce degli ascoltatori, gli approfondimenti che spaziano dalla scienza alla salute, all'economia, alle ingiustizie di cui è ricca la cronaca italiana, contribuiscono a renderci adulti più consapevoli, informati e presenti nella realtà della vita di questo paese. Personalmente abbiamo sempre guardato alla politica con un senso di fastidio e noia, pur adempiendo al nostro dovere di cittadini votanti. Da quando ascoltiamo la sua radio, andiamo a votare in modo molto diverso, sentendoci più partecipi e finalmente più consapevoli del nostro importante gesto, e gliene siamo grati. Abbiamo anche la rara opportunità di monitorare costantemente l'operato di chi ci governa e di chi si oppone, alla luce della vera informazione. Le auguriamo ogni bene per la sua vita personale e professionale, sperando che continui ad operare in questo campo, rendendo un servizio prezioso ai cittadini italiani. Abbracciandola con gratitudine, Paola e Riccardo, provincia di Como. Vorrei manifestare la mia indignazione per due episodi sconcertanti. La riassunzione di quei controllori di volo che durante il loro importantissimo servizio dormivano o giocavano a calcetto e quella dei ferrovieri che si facevano timbrare le presenze pur essendo altrove. Due fatti gravissimi, con effetti devastanti. Infatti il messaggio che lancia la solita Italia dei tarallucci e vino è: fate pure quello che vi pare, tanto la farete sempre franca. Edoardo. Secondo voi, è giusto che il presidente di Unicredit si presenti alla TV di Stato, pagata da me e da altri milioni di corretti cittadini, per tranquillizzare i suoi clienti e i suoi investitori? Ma che si paghi qualche passaggio radio-televisivo e qualche pagina di giornale e non gravi sulle mie tasche. Vergogna. Valerio. Ma non vi sembra che la sinistra nei confronti del Nord-Est faccia sempre gli stessi errori? Come possono pretendere di avere voti in quella zona se continuano a definire il Nord-Est segregazionista? Gianni, Verona. Condivido in gran parte l'azione moralizzatrice di Brunetta. Purtroppo, nella sua foga, ha tolto la giornata di riposo ai donatori di sangue e le donazioni ne hanno già risentito. Durante l'estate abbiamo sentito gli appelli del Ministero della Salute per la mancanza di sangue, mentre Brunetta, con il suo provvedimento, ha scoraggiato molti volontari che non intendevano perdere la giornata di paga. Ivo. Stimato direttore, sono un militare. E volevo segnalarle che per la categoria dei lavoratori delle forze armate e delle forze di polizia, i provvedimenti introdotti dal decreto Brunetta hanno un effetto particolarmente persecutorio. Per tutti noi, appartenenti a tali comparti, la busta paga è strutturata in maniera completamente diversa da quella degli altri impiegati statali. In essa, infatti, la voce stipendiale costituisce solo il 60-70% del salario. Tutto il resto è costituito da indennità operative e accessorie legate all'incarico. Pertanto, la mancata erogazione di tale indennità, durante i famosi 10 giorni di malattia, comporta la perdita di diverse centinaia di euro. Questa situazione suona ancora più assurda se si considera che, secondo fonti ufficiali, i militari risultano in assoluto i più sani e i più virtuosi, ponendosi all'ultimo posto delle assenze di malattia, con soli 0,5 giorni di assenza per malattia pro capite, dati calcolati nel corso del 2005. Posso testimoniare che quanto disposto dal decreto mi amareggia, come persona e come lavoratore con la divisa, soprattutto perché ultimamente si sono spente le speranze legate all'approvazione di un emendamento che, secondo le promesse iniziali, avrebbe dovuto graziarci dagli effetti del noto decreto. Tale emendamento, che secondo la Commissione Lavoro della Camera doveva prevedere la totale esclusione del comparto sicurezza e difesa dal campo di applicazione dell'articolo 71 della legge 133 del 2008, in realtà non ha introdotto nessuna immunità dagli effetti sanzionatori in caso di normali assenze di malattia, ma prevede l'esclusione solo nel caso in cui l'infermità sia stata provocata da malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e addestrative. In definitiva, anche con questo emendamento, una normale influenza ci costerà centinaia di euro. Che dire, non è giusto, soprattutto perché i dati dimostrano che a pagare di più in questo caso non sono di certo dei fannulloni, ma, come sostengono le statistiche, sarà invece una categoria di lavoratori sana e virtuosa. Cordiali saluti, Massimo. Caro direttore, ho una sensazione che si alimenta di giorno in giorno ascoltando le notizie dal mondo. Vuole vedere che il nostro piccolo paese, il liberale, fatto di piccole, se non di piccolissime imprese, locale, finanziariamente arretrato, così si dice di chi risparmia, vero? Alla fine dimostrerà di avere in sé, invece, la ricetta vincente per superare meglio di altri l'incredibile crisi economico-finanziaria di questi giorni? Perché, vede, è sempre chi sale più in alto che cadendo si fa più male. Sono le grandi multinazionali che fallendo creano grandi danni a tutti. Danni che spesso sono molto superiori dei benefici apportati in periodi di pace. Marco, Milano. Buongiorno, Sant'Almassi. Perché la sinistra italiana si identifica nella sinistra degli Stati Uniti d'America? Come può quello che è stato un partito comunista filo-sovietico, la cui classe dirigente tuttora proviene da quella scuola, paragonarsi ai democratici americani? Io vedo più similitudini tra Clinton e Berlusconi che tra Clinton o Obama e Veltroni. In questa mia riflessione si possono trovare le motivazioni dell'incapacità della sinistra italiana di proporre soluzioni, anche economiche, alle problematiche nazionali. Enrico. Non c'è nessuna crisi. Voglio dire che c'è una debolezza economica, ma quello che vediamo non riguarda l'economia. Siamo in una classica bolla finanziaria. I prezzi dei titoli sono stati gonfiati dalle banche d'affari in pieno conflitto di interessi. Hanno spinto questi titoli nelle tasche dei risparmiatori piccoli. Adesso è scoppiata la bolla e ci si è resi conto della situazione. È in corso una rivalorizzazione dei titoli che si fermerà quando saremo vicini ai valori dei fondamentali. A quel punto entreranno in gioco gli investitori seri, che operano quando il prezzo è giusto. Come sempre, ciclicamente, si saranno spennati quelli che vengono definiti in gergo buoi o parco buoi. Tutto qui. Ditelo, è una bolla finanziaria, non una crisi. La crisi economica è solo un pretesto. Francesco da Foggia. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare, e vedrà che la crisi passerà. Caro direttore, il Papa ha detto che il denaro è nulla, mentre la parola di Dio è tutto. Ma chi non arriva alla quarta settimana, che gli diciamo? Invece di mangiare qualunque cosa in salmì, di divorarsi due salmi? Margherita Barletta. Margherita, complimenti per la sua peraltro eccellente battuta, che però mi sembra riduttiva assai. Intanto vorrei farvi risentire esattamente cosa ha detto il Papa, in una sintesi che però lo rispetta. Apparentemente queste sono le vere realtà: successo, carriera, soldi. Ma in realtà un giorno passa, vediamo adesso nel crollo delle grandi banche, che scompaiono questi soldi, sono niente. E chi costruisce la sua vita su questa realtà, sulla materia, sul successo, su tutto questo che appare, costruisce sulla sabbia. E solo la parola di Dio è fondamento di tutta realtà, è stabile come in cielo più che il cielo, è la realtà. Ecco, secondo me Papa Ratzinger stavolta l'ha detta proprio giusta. Vede, Margherita, questa è una società in cui il denaro è l'unico metro di misura. Io non lo disprezzo. C'è qualcosa di più giusto per giudicare Tizio più bravo di Caio che pagare meglio Tizio di Caio? Tutto sommato è meglio così, con questo metro, che quello della raccomandazione dei posti occupati a umma, come dicono a Napoli, no? Trasparenza e chiarezza. Solo che da metodo di giudizio laico di una scala di valori professionali, diciamo, il denaro è diventato un fine e non più un mezzo. Conta solo il denaro. Farne di più è l'unico modo per avere non solo una vita assai più comoda, ma anche visibilità, notorietà. Insomma, solo se sei ricco hai una polizza che ti dichiara esistente in vita, con il corollario che se incuti timore viene scambiato per rispetto, se susciti invidia viene contrabbandata per stima. E magari che devo dirle, Margherita, sin qui ancora ci siamo. Il fatto è che se l'unica cosa che conta è il denaro, allora il passo successivo è che qualunque mezzo per conquistarlo, questo denaro, diventa lecito. E così non è, così non può essere. Perché così accade che Parmalat viene appioppato a poveri risparmiatori, magari anziani, ignari e innocenti, che tra i capi di accusa affiorani ci fosse l'aver distratto fondi dai conti correnti di coloro che erano appena morti, o che una minorenne si fotografi le parti intime e col telefonino la mandi in giro per far cassa e comprarsi i vestiti griffati. Da laico dico, santa santità, se no che mondo è questo? Queste erano alcune lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.